Il Sole 24 Ore. L'appello di Napolitano Gheddafi: fermi ogni azione militare. In partenza da Catania la missione umanitaria italiana. Il nostro paese mette sul piatto quasi 1 miliardo di euro, fa sapere il ministro Frattini. Le Marche chiedono misure urgenti per liberare le fabbriche dal fango. Oggi i funerali di 2 delle vittime. Legambiente denuncia: ogni anno in Italia cancellati 500 km quadrati di suolo, un'area grande quanto Milano. Era consenziente, dicono i carabinieri, che avrebbero abusato di una donna in arresto per furto in una caserma romana. 150esimo dell'Unità d'Italia, la beffa di Novara, il 17 marzo dipendenti del comune a casa, ma sarà tolto loro un giorno di ferie. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Vittoria o morte, non ci fermeremo finché non avremo liberato questo paese. Lo ha detto il leader del Consiglio dei ribelli libici Abdel Jalil parlando ai suoi sostenitori. Nuovi bombardamenti intanto si segnalano sul terminal petrolifero di Brega e raid aerei su Misurata e Ashbadia. Ma per saperne di più ci colleghiamo con l'inviato del Sole 24 Ore a Bengasi, Roberto Bongiorni. Roberto. Sì, buongiorno a tutti. In questo momento ci troviamo nella piazza centrale di Bengasi, dove è in corso la preghiera del venerdì, giornata di collera, di rabbia, oggi a Bengasi. Rimasta arringando la folla, sta urlando Andrea Tripoli, ma il problema è che le forze di Gheddafi sono ormai molto vicine alla città petrolifera di Brega. Hanno conquistato Ras Lanuf, il terminal più importante del Nord Africa, e ora hanno schierato i loro mercenari sulla rive vicino a Brega. Li abbiamo visti ieri, come abbiamo visto le forze dell'opposizione, un esercito caotico, un po' anarco, dotato senza volontà, tirare tutti i loro mezzi in mezzo alle dune. Bene, oggi sarà una giornata strategica, si prevedono attacchi e contrattacchi. Le forze di Gheddafi, ripeto, sembra che abbiano staccato anche stamattina con delle bombe senza però fare danni, ma le prossime ore saranno davvero importanti. Intanto Bengasi, la città di Bengasi, la capitale della Cirenaica, da cui è partita la rivolta, si prepara anche all'eventuale attacco. Centinaia, forse 1000 batterie di contraerei sono state predisposte in tutto intorno alla città e la gente comincia a prepararsi per quello che potrebbe essere un eventuale, anche se remoto per ora, assedio. E da Bengasi è tutto. Grazie a Roberto Bongiorni. Non si sentiva un granché questa telefonata, ma insomma siamo riusciti a capire quanto sta accadendo. Gheddafi, fermi ogni azione militare contro il suo popolo, ha detto il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al Consiglio per i diritti umani di Ginevra. Se lo farà, aggiunto, sosterremo qualunque sforzo perché la Libia sia riammessa al Consiglio dell'ONU da cui è stata sospesa. Quasi 1 miliardo di euro, questo intanto ha fatto sapere il ministro degli esteri Frattini, la cifra che l'Italia arriverà a mobilitare per favorire lo sviluppo dei paesi della sponda sud del Mediterraneo nell'attuale fase di crisi sociopolitica. Sono già avviate al momento 2 operazioni umanitarie, una diretta in Libia, l'altra un po' più complessa, per rimpatriare gli egiziani fuggiti dalla Libia entrando in Tunisia. Laura Bettini ha intervistato Elisabetta Belloni, direttore generale della cooperazione per il Ministero degli Esteri. La nave sta caricando il bene e dovrebbe partire tra la serata e la notte. Che cosa trasporterà? Dunque, la nave trasporta beni alimentari generosamente donati dalla COP e poi generatori elettrici, potabilizzatori e kit sanitari della cooperazione italiana, tende e coperte. Tutto quello che serve quindi ad allestire anche un campo? No, senza campo, questo lo diamo tutto alla popolazione libica, provvedono loro se sono organizzati. Avete rapporti con le autorità libiche per poter portare a termine questa operazione? Questa operazione in Libia, questa distribuzione di beni alimentari è diretta alla popolazione, scaricheremo i nostri aiuti sanitari ed alimentari alla popolazione che è organizzata. Ci sono in loco appunto dei gruppi che sono in grado di gestire la distribuzione di queste materie, quindi in questo momento è un'operazione puramente umanitaria diretta ad alleviare le sofferenze della popolazione. Ci sono ovviamente dei rischi in questa missione. Ma guardi, io non voglio fare allarmismi perché non servono. Queste operazioni hanno sempre una componente minima di incertezza, io non la voglio nemmeno chiamare rischio, è ovvio. Però possiamo anche dire che è una nave militare perfettamente attrezzata per eventuali rischi e poi naturalmente prima di attraccare verificherà le condizioni, questo è ovvio. Invece con le autorità tunisine la situazione è diversa, c'è maggiore collaborazione? Con la Tunisia siamo in contatto continuo, ho appena sentito il nostro ambasciatore che era al Ministero degli Esteri, quindi è assolutamente in stretto contatto con le autorità tunisine, alle quali il nostro Ministro degli Esteri ha formalmente dato la nostra disponibilità a venire incontro alle loro esigenze, sia in termini di voli che in termini di assistenza eventualmente sanitaria e di equipaggiamento, quindi beni alimentari piuttosto che tende, piuttosto che altre cose, dipende da quello che ci chiederanno. Ci pare di capire, da quanto l'ambasciatore ha appreso poco fa al Ministero degli Esteri, che in questo momento i tunisini insistono nei trasferimenti, l'UNHCR invece ci dice che è calata la pressione, quindi stiamo adesso verificando, abbiamo giù il nostro personale, il personale della protezione civile, della difesa, degli interni e quindi verificheranno anche loro proprio con i loro occhi se c'è questa esigenza. E questo invece accade in Egitto. Il primo ministro incaricato egiziano Essam Sharaf ha fatto il suo ingresso in piazza Tahrir al Cairo, dove sono riunite da questa mattina migliaia di persone che hanno appena finito la preghiera del venerdì. Sono in questa piazza perché la legittimità mi viene da voi, dal popolo di piazza Tahrir, ha detto Sharaf in un improvvisato giuramento prima di essere portato in spalla fra i manifestanti. Camera ardente ad Occhiobello in provincia di Rovigo, paese natale del capitano Massimo Ranzani, ucciso in un attentato in Afghanistan. Nel pomeriggio alle 15 è previsto il funerale in forma privata. E a Roma questa mattina la firma dell'atto costitutivo della Fondazione Memoriale Caduti di Pace, nata per onorare la memoria dei caduti italiani nelle missioni internazionali di pace. Ci racconta tutto Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Favorire una cultura politica fondata sulla memoria condivisa e dunque ricordare l'impegno di tutti gli italiani militari e civili caduti nelle missioni di pace come fondamento per una nuova unità del paese. Questo l'obiettivo della fondazione nata per iniziativa del Sole 24 Ore di Wind, presentata poco fa a Palazzo Chigi. Presidente è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta. Una fondazione che nasce all'indomani dei funerali dell'ultima vittima, il capitano degli alpini Massimo Ranzani, di cui ieri sono stati celebrati funerali, l'ultima purtroppo di un lungo elenco, e nel giorno del sesto anniversario della morte dell'agente segreto Nicola Calipari. Il primo obiettivo della fondazione sarà la realizzazione di un memoriale per i caduti italiani, un monumento che renda loro onore valorizzando attraverso la memoria il sacrificio di chi ha servito appunto il nostro paese, ma sia anche un luogo di riflessione e commemorazione unitaria anche alla luce del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Il progetto del memoriale sarà scelto attraverso un concorso internazionale di arte e di architettura promosso dalla Fondazione. Altro obiettivo: sostenere e valorizzare iniziative umanitarie, culturali e artistiche, favorendo l'informazione e il confronto sulla nostra presenza nelle missioni di pace. Da Palazzo Chigi è tutto, a voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. Ed ora invece sentiamo come vanno questa mattina le borse. Lo facciamo come sempre con la nostra Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. Allora, la giornata in borsa è positiva. Gli indici sono in rialzo di circa mezzo punto percentuale. L'unica che rimane un po' indietro è Parigi, più 0,19. Milano invece la miglior piazza d'Europa, grazie alla cavalcata delle banche, segna un rialzo di un punto percentuale. Ma è il mercato delle valute ad essere sotto osservazione: 1,3975 il rapporto di cambio tra euro e dollaro, e soprattutto il mercato interbancario, il mercato dei tassi interbancari, con l'Euribor a tre mesi salito dai massimi del giugno 2009, spinto dalla prospettiva di una stretta monetaria della Banca Centrale Europea già ad aprile, come preannunciato ieri dal numero uno della BCE, Trichet. Oggi l'appuntamento centrale per i mercati sarà quello con la disoccupazione americana alle 14.30, qualche indicazione positiva è arrivata ieri dai sussidi settimanali alla disoccupazione e quindi c'è un'attesa positiva anche per questa statistica macroeconomica. Il petrolio è sempre sugli scudi, WTI a New York a $102, Brent a Londra a 115, è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. E veniamo invece alla politica italiana. Il ministro della semplificazione Roberto Calderoli annuncia per mercoledì un incontro con le regioni per cercare di trovare un chiarimento sul federalismo regionale, dopo che il coordinatore dei governatori, Vasco Errani, ha accusato il governo di non rispettare gli accordi firmati a dicembre. Così Calderoli ha parlato questa mattina su Canale 5. Ma guardi, noi abbiamo raggiunto un'intesa nella sede propria, che è la conferenza unificata. Le conferenze sanciscono degli atti ufficiali, quindi non è che un'intesa possa andare e venire una volta assunta. Noi abbiamo comunque preso degli impegni che intendiamo rispettare fino in fondo. Vi erano anche impegni da parte delle regioni, quindi ci incontreremo mercoledì prossimo perché ciascuno faccia la propria parte. E a tenere banco resta sempre anche il tema della giustizia. Nonostante le polemiche e lo stop del suo partito, Luigi Vitali insiste con la proposta di legge sulla prescrizione breve. Il testo del deputato del PDL obbliga il giudice a concedere le attenuanti generiche agli incensurati e alle persone oltre i 65 anni con una conseguente riduzione dei tempi di prescrizione del reato. Immediate le proteste dell'opposizione, secondo cui si tratta dell'ennesima legge salva Berlusconi. Anche lo stesso PDL ieri però ha preso le distanze dal provvedimento. Ghedini ha parlato di iniziativa personale e inopportuna e ha chiesto di ritirarla anche perché non aiuterebbe Berlusconi, che dal canto suo ha invece assicurato di non saperne nulla. Vitali però tira dritto e stamattina ha confermato che si tratta di una sua iniziativa personale, ma ha anche aggiunto che il testo è in fase di redazione alla Camera e verrà sicuramente presentato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È nata davvero male, particolarmente sfortunata, questa festività del 17 marzo per celebrare 150 anni dell'Unità d'Italia. Sentite l'ultima. Il comune di Novara non è l'unico, ma fa più rumore perché qui da 10 anni comanda la Lega e i pensieri maliziosi tra i critici si sprecano. In due parole la faccenda è questa. Per gestire gli effetti della festività del 17 marzo, giorno che il 22 febbraio scorso, dopo mille polemiche, il governo ha indetto festa nazionale una tantum, l'amministrazione novarese ha stabilito con una circolare che i propri dipendenti dovranno prendersi un giorno di ferie obbligatorie. Il segretario comunale Sergio Albenga spiega che la decisione risponde a un'interpretazione prudenziale del decreto diffusa anche in altri comuni. Nel decreto c'è scritto che non ci devono essere maggiori oneri per la finanza pubblica e per le imprese private, testualmente. Il che significa che se c'è un giorno in più festivo e io non lo vado a scalare dai 32 giorni più 4 di festività soppresse, che sono le ferie che spettano i dipendenti, ho dei maggiori oneri per la finanza pubblica. La decisione è piaciuta poco ai dipendenti. Il segretario della funzione pubblica CGIL di Novara, Guido Catoggio, spiega che l'interpretazione è possibile, ma eccessivamente restrittiva e penalizzante per i lavoratori e che il sindacato ha chiesto al comune di ripensarci. Ma Catoggio sottolinea che il pasticcio lo ha fatto il governo. È stato fatto un decreto nel quale in premessa si riconosce l'assoluta importanza di celebrare l'Unità d'Italia, ma porta poi alla fine nei cittadini a avere una certa percezione su questa finalità distorta, perché gli si dice festeggiamo sì, però ci mettete un giorno di ferie. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato dell'appello di Napolitano: Gheddafi fermi ogni azione militare in Libia. In partenza intanto questa sera da Catania la missione umanitaria italiana. Il nostro paese mette sul piatto quasi 1 miliardo di euro, ha fatto sapere il ministro Frattini. A Roma questa mattina la firma dell'atto costitutivo della Fondazione Memoriale Caduti di Pace, nata per onorare la memoria dei caduti italiani nelle missioni internazionali di pace. 150esimo dell'Unità d'Italia, la beffa di Novara. L'abbiamo sentito poco fa, il 17 marzo dipendenti del comune sì a casa, ma sarà tolto loro un giorno di ferie. E ripartiamo invece dall'alluvione nelle Marche, che come sapete ha fatto 5 vittime in tutto il centro-sud. Si registrano questa mattina nuovi smottamenti per le forti piogge, l'ultimo vicino ad alcune case ad Urbino. La portata dei fiumi si sta lentamente abbassando di ora in ora, ma la Protezione Civile ha messo in guardia i comuni sul rischio che nuove frane si verifichino ancora per almeno un mese. Oggi intanto a Casette d'Ete, nel Fermano, dove l'esondazione ha fatto 2 vittime, è giornata di lutto cittadino e nel pomeriggio si terranno i funerali. Il governo sta aspettando da parte sua le relazioni ufficiali delle prefetture e della Protezione Civile sui danni provocati dal maltempo per avere un quadro preciso della situazione in modo da varare poi nella prossima settimana delle misure straordinarie. Ma trasferiamoci nelle Marche, siamo in diretta con l'inviato del Sole 24 Ore, Lionello Mancini. Lionello, dove sei e soprattutto com'è la situazione? Sì, buongiorno, io sono ad Ascoli Piceno, dove piove, continua a piovere. Però teniamo presente che Ascoli è una 30 di chilometri all'interno ed è un po' alto sul mare. Le persone che salgono da San Benedetto del Tronto, cioè dalla fascia costiera, dicono che invece giù non piove e quindi questo lascia ben sperare. Allora, è vero che le frane continueranno a susseguirsi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché il terreno è gonfio d'acqua, soprattutto perché fortunatamente nel giorno del disastro era abbastanza freddo, in alta quota anziché piovere nevicava, ma questa neve che ha impedito che ancora più acqua si riversasse a valle, piano piano si scioglie e quindi le frane continueranno a susseguirsi. Sono frane di piccola entità che però bloccano le strade e pongono dei grossi problemi di circolazione. Circolazione, certo. Ecco, come le aziende, come stanno reagendo? Quali sono i danni che stai vedendo, insomma? Allora, i conti li stanno ancora cercando di fare, molte aziende stanno iniziando a ripulire, hanno iniziato anche da subito con dei grossi problemi quanto al riconoscimento dei danni stessi. Le associazioni industriali stanno inviando email e questionari per avere un quadro all'interno della situazione. I guai sono per alcuni guai di magazzino, produzioni già pronte, qui è una zona di tessile e di calzature, produzioni già pronte che sono andate rovinate per la collezione dell'estate. Peggio ancora quando invece il fango o l'acqua hanno rovinato macchinari, perché in quel caso chiaramente la produzione dovrà riprendere ancora più avanti. Teniamo presente che le aziende più grosse, più strutturate, magari erano anche assicurate, ma la caratteristica di questa zona è di avere decine di migliaia di piccole, piccolissime, micro aziende che probabilmente non erano pronte a un avvenimento di questo genere e stanno in questo momento rilevando i loro danni. La Barilla, comunque, che è nella zona industriale di San Benedetto del Tronto, dovrebbe riprendere la produzione tra 5 o 6 giorni, la Barilla occupa 150 persone. Grazie dunque a Lionello Mancini, e questa mattina restiamo in qualche modo in tema. Lega Ambiente ha presentato il suo rapporto annuale sul consumo del suolo in Italia. A curare il rapporto, fra gli altri, Edoardo Zanchini, responsabile energia e infrastrutture di Lega Ambiente, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, abbiamo sentito del disastro nelle Marche e più in generale in questi giorni nel centro-sud. Forse è un po' presto per dire se questo sia dovuto anche al consumo dissennato del suolo, però insomma, sono a ogni pioggia l'Italia viene giù. Sì, purtroppo è così, e purtroppo magari già da dopodomani ci siamo dimenticati di tutto questo e ci sarà qualcuno che dirà che bisogna limitare i vincoli idrogeologici quando si fanno le trasformazioni, bisogna avere più semplificazione, anche avendo magari un po' meno attenzione a quelli che sono dei fenomeni naturali, perché appunto che certi territori franino è noto. Il punto è quello di riuscire a tutelare questi territori e poi a dare appunto delle possibilità invece per realizzare le case per chi ne ha bisogno nei posti in cui è possibile. Ecco, oggi avete presentato il vostro rapporto annuale. Ogni anno in Italia vengono cancellati in media 500 chilometri quadrati di suolo, come se venisse inghiottita l'intera area del comune di Milano. Non si riesce a fermare questo fenomeno? Purtroppo i dati ci dicono questo, cioè ci dicono che stanno cambiando tantissimi paesaggi italiani, e in particolare quello che è cambiato negli ultimi due decenni sono soprattutto le periferie delle grandi aree urbane e tanti aree di pregio come le coste, le aree interne, i paesaggi più belli d'Italia. Si sono realizzati solo negli ultimi 20 anni qualcosa come 4 milioni di abitazioni, e il problema è che a fronte di questi 4 milioni di abitazioni, che sono tantissime, poi si hanno dei problemi di emergenza in tante città italiane. Però il punto è che bisogna costruire case per chi ne ha veramente bisogno e poi tutelare le aree più delicate e belle del nostro paese. Quali sono le zone in cui il dissesto, insomma, l'utilizzazione del suolo è stato più dissennato? C'è una classifica, vedo, nel vostro rapporto? Beh, noi segnaliamo alcuni fenomeni particolarmente gravi. Il primo ovviamente è quello dell'abusivismo edilizio e delle costruzioni nelle zone appunto più a rischio del nostro paese. Qui proprio qui c'è bisogno proprio di una politica di tutela e anche di demolizione di interventi che sono appunto costruiti illegalmente, che si continuano a condonare, e poi di tante case che invece sono costruite in aree a rischio. Poi ci sono le grandi città. Noi abbiamo presentato oggi uno studio su Roma inedito, nel quale si racconta come dal 93 ad oggi si è costruito qualcosa come 4.800 ettari, quindi andando a cambiare paesaggi agricoli e naturali, realizzando moltissime case. Il problema è che se poi uno va a vedere la situazione di Roma si rende conto che ci sono alcune decine di migliaia di famiglie a rischio sfratto, tante famiglie che non riescono a arrivare alla fine del mese per pagare l'affitto e il mutuo, che vuol dire dire che si sono costruite tante case, spesso in zone mal collegate dal punto di vista dei trasporti, ma non si è data risposta ai bisogni delle famiglie. Grazie, grazie ad Edoardo Zanchini, responsabile energia e infrastrutture di Lega Ambiente, e noi restiamo alla pagina di cronaca con quello che sembra essersi verificato in una caserma romana. Sarebbe stata violentata da due carabinieri mentre si trovava in caserma in camera di sicurezza a Roma. È l'accusa mossa da una 32enne fermata lo scorso 23 febbraio per un furto in un supermercato della capitale. Bloccata all'uscita del negozio, è stata trasferita nella caserma del Quadraro in attesa l'indomani mattina dell'udienza di convalida. Proprio quella notte però avrebbe subito la violenza da parte di due militari, mentre un terzo, secondo l'accusa, avrebbe controllato che nessuno si avvicinasse. La denuncia è stata presentata al pronto soccorso, dove la donna è andata per sottoporsi a una visita che avrebbe accertato l'avvenuto rapporto sessuale, senza però riscontrare lesioni che darebbero forza all'ipotesi dello stupro. L'atto sembrerebbe quindi esserci comunque stato. Oltre ai tre carabinieri che sono stati momentaneamente trasferiti in un'altra caserma, in questa storia che mette in grande imbarazzo l'arma, sarebbe coinvolto anche un vigile urbano. Sulla vicenda ancora da chiarire indaga la Procura di Roma, a cui anche il sindaco di Roma, Alemanno, ha chiesto di fare chiarezza in fretta. Monica Ceravo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Preoccupazione sì, ma non troppo, per la questione delle 36 segnalazioni fatte dalla Covisoc alla Procura federale. Sentiamo cosa è successo. I campionati non saranno in alcun modo sconvolti. Non c'è un rischio penalizzazioni e me ne assumo le responsabilità. Il presidente della Federcalcio, Giancarlo Abete, getta acqua sul fuoco per le polemiche relative alla segnalazione di 36 società, tra cui 6 di Serie A e 6 di B, alla Procura federale, con l'accusa di aver effettuato pagamenti con modalità diverse da quella stabilita dalle norme federali, che prevedono un conto dedicato. Per Abete, dunque, ingiustificato l'allarme lanciato dal presidente della Lega Pro, Mario Macalli, sulle disparità di trattamento tra club di Serie A e club minori, ai quali sono stati già irrogati in questi mesi circa 80 punti di penalizzazioni per irregolarità varie e il mancato pagamento di ingaggi e contributi. In realtà è solo l'ultimo atto della guerra sotterranea che da qualche mese sta spaccando il calcio italiano per la ripartizione dei diritti TV, una quota dei quali, circa il 10%, deve essere devoluta sulla base della legge Melandri dalla Serie A alle società di B, Lega Pro e dilettanti. Si tratta di un centinaio di milioni che per le disastrate casse di molti club rappresentano l'unica via per non scomparire dal calcio professionistico. Marco Bellinazzo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E festa grande stasera a Piazza Maggiore a Bologna per gli appassionati Ducati, che daranno il benvenuto a Valentino Rossi, che terrà battesimo la nuova Desmo 16 GP11 ad una ventina di giorni dall'inizio del mondiale di MotoGP. Da oggi al Maxi di Roma è di scena Michelangelo Pistoletto con una doppia mostra da uno a molti in coproduzione con il Philadelphia Museum of Art. Più di 100 lavori provenienti da varie collezioni pubbliche e private per raccontare uno degli artisti italiani più importanti, figura chiave dell'arte contemporanea. Città dell'Arte invece è dedicata all'omonimo laboratorio creativo fondato da Pistoletto a Biella nel 1998. Il curatore dell'evento espositivo, Carlos Basualdo, al microfono di Adriana Fracchia. L'idea è nata nel 2005, io insegnavo a Venezia, allo UAP, ed è molto chiaro per me che gli artisti giovani si ispiravano dall'opera di Michelangelo, dal lavoro che lui stava facendo a Città dell'Arte. Era molto importante perché ancora, diciamo, per i giovani il tema della partecipazione e del lavoro collettivo è una delle preoccupazioni. In quegli anni si incominciava a percepire questo atteggiamento e questo desiderio di stabilire un ruolo per l'arte, di ripensare alla possibilità di stabilire un ruolo per l'arte oltre, diciamo, la dimensione semplicemente estetica. Allora, il punto di partenza sono stati i miei studenti, sono stati gli artisti che ho conosciuto, è stato l'interesse che io vedevo in Italia e in Europa per il lavoro collaborativo, per questo progetto interdisciplinare di Michelangelo. Poi abbiamo deciso di affrontarlo in modo tale di poter costruire una genealogia storica, voglio dire di poterci spiegare come Michelangelo è arrivato a quella formula. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Filippo Aureggi. Vi lascio alle borse, poi Italia in controluce. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.